Esercizio 2. Ascolta e ripeti ciascuna coppia dell'esercizio 1 da sinistra a destra. E successivamente ascolta e ripeti le coppie da destra a sinistra. Fumo, fummo. Mama, mamma. Andremo, andremmo. Cammino, cammino. Comando, commando. Soma, somma. Fummo, fumo. Mamma, mama. Andremmo, andremo. Cammino, cammino. Comando, comando. Somma, soma.